tutto il peggio di me. Tra luci ed ombre, sai quest'uomo un po' chi è. E adesso che torno in ginocchio da te, come chissà che altra vita poi non c'è. Prova un po' a capire se c'è ancora poi qualcosa che resta di noi. Parlami di te, delle mie bugie, parlami di te, di sogni e fantasie, parlami di te, dei progetti che hai, e poi dimmi se c'è posto ancora anche per me. E adesso che hai visto le virtù e la viltà di quest'uomo in viaggio fra illusioni e la realtà, e adesso che aspetto solo un cenno da te, come chissà che altra strada poi non è. Prova un po' a capire se c'è ancora in te qualcosa che torna di me. Parlami di te, delle mie mani, e parlami di te, di ansie e nostalgie, parlami di te, che hai, e poi dimmi se c'è posto ancora anche per me. Tienimi con te, non te ne pentirai, ci scopriremo ogni giorno diversi e uguali noi, correremo nel sole ci fermeremo a riposare e ti domanderò. Parlami di te, delle mie bugie, parlami di te, di ansie e nostalgie, parlami di te.